Un buongiorno a Marco Baldassarri, curatore di questa nuova mostra che arriva a Palazzo Fava, con protagoniste quattro donne iraniane, quattro giovani artiste. Come nasce innanzitutto questo progetto, questa idea? L'idea nasce da loro stesse, in particolare da una delle artiste, che ha convogliato, diciamo, questa forza di libertà attraverso un'espressione d'arte che Janus Bononi ha raccolto e ci ha dato la possibilità di mostrare queste finestre. Sono quattro finestre aperte sul mondo occidentale tramite la loro arte che nasce in Oriente. Si vede anche, si intravede, io che sto facendo un giro per la mostra, la anche eterogeneità delle opere presenti, ce la può raccontare? Certo, infatti l'eterogeneità è anche all'interno dell'Iran. È un paese che è 9 volte grande come l'Italia, le differenze, diciamo, culturali, sociali, economiche sono notevoli, ci sono varie, diciamo, etnie e quindi ci sono anche varie forme di cultura che loro esprimono, e in questa mostra si vede anche la differenza di cultura di questi vari, diciamo, possibilità. Dall'inizio, diciamo, da parte di Pega, un rapporto legato più alla classicità, da parte di Reiani un rapporto legato più alle tradizioni dei tessuti Kilim. Poi c'è il rapporto con la natura che esprime Sanganian nella terza sala, un rapporto molto legato anche all'arte occidentale. Infine c'è un rapporto legato all'arte più concettuale, che è quello dell'artista Khorshid, che rappresenta queste grandi figure in equilibrio nello spazio. Questo titolo invece, Voci dall'Abisso, che ispirazione ha? Il titolo è stato creato da loro, si sono raccolte un qualcosa che in qualche modo rappresentasse quello che è questa mostra, cioè una mostra che vuole esprimere attraverso queste voci, che sono le loro opere, dall'abisso, perché la censura che vige nel loro paese non permette di esprimere liberamente il loro pensiero artistico, non solo a loro ma a tutti gli artisti. Grazie mille. Prego.